viso gelido e sincero, in uno splendido contorno di lenzuola setti che resta fino a che fa giorno, dopo una notte interminabile. Yeah, yeah, yeah. E si vive sotto vetro, forse un po', mentre il cielo acquista luce e tutto si riduce a fare i conti con il sesso, forse un po', mentre tutto ci conduce ad uno stabile ritorno. Sarà il solito scenario, senza veli né morali, sopra il solito binario, solo scambi occasionali, fuori tempo senza orario, questa routine irripetibile, uno statico ritorno dopo una notte interminabile. Yeah, yeah, yeah. Dove si vive sotto vetro, forse un po', mentre il cielo acquista luce e tutto si riduce a fare i conti con il sesso, forse un po', mentre tutto ci conduce ad uno stabile ritorno. Stabile ritorno.